Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata della prima settimana di agosto, tecniche di sopravvivenza. Sono le 10:08. Oggi si parla di partenza, appunto, perché ci siamo. I più fortunati saranno già in macchina perché si sono presi anche il venerdì di ferie, sperando nella partenza intelligente, e ci stanno ascoltando. I mediamente fortunati magari partiranno stasera perché adesso sono in ufficio con un occhio al computer, l'altro all'orologio, per non sforare neanche di un minuto, e ci stanno ascoltando. Mentre quelli sfacciatamente fortunati sono già al mare o in montagna, poiché sono partiti in settimana in barba alle code, e anche loro ci stanno ascoltando. Probabilmente dalla prossima settimana saremo veramente pochi in città. A proposito, prenotatevi per il caffè che faremo qua in radio la prossima settimana per le puntate di martedì, mercoledì e giovedì, le puntate dedicate all'agosto in città, mandando la vostra candidatura con una mail ad agosto@radio24.it, perché noi siamo gli assistenti al vostro agosto e le dritte che vi daremo oggi riguardano appunto le partenze. Le partenze che, se non hanno la pretesa di essere intelligenti, almeno oggi vorrebbero essere simpatiche. Magda, per l'amor di Dio, fermati! Ma scusa, Furio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Tesoro, quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più e né meno. Su, bambini, salite, venite qua. Anton Giulio, vai al posto d'Anton Luca. E te, Anton Luca, vai al posto d'Anton Giulio. Perché c'è un leggero squilibrio. Questo è già un assestamento più accettabile. Quanti Furio ci sono adesso in macchina o che stanno preparando il loro baule? Perché caricare il baule dell'auto è veramente un'arte. Io, che ho una 500 e ho sempre troppe valigie, so che cosa significa mettere le valigie nel posto giusto, cercare di fare quindi il puzzle, come dice Furio. Ma quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per la partenza? Voi che vi state magari preparando adesso a caricare la vostra auto, scriveteci i vostri sms al 349-238-6666, oppure raccontateci cosa state facendo adesso che vi state mettendo in macchina all'800 24 00 24. E soprattutto, siete sicuri di aver già preso tutto? Avete fatto l'ultimo controllo, tutto a posto prima di mettervi in marcia? Avete fatto tutto? Ci sono delle situazioni nelle quali vi state trovando adesso, vi siete trovati a suo tempo quando stavate per partire. Eccole. Il meccanico è un tuo amico? Non è un buon motivo per passarci delle ore. No, il parrucchiere non è un mio amico. E che c'entra adesso? Sveglia all'alba, auto pronta dalla sera prima. Ma non è un po' eccessivo, visto che vi state trasferendo nella casa di vacanza che è a 30 km da casa vostra? Ecco perché sei sempre stato un mostro a Tetris. Anni e anni di esperienza con le valigie di tua moglie e il baule della tua auto. Decisi? Proprio oggi che è il bollino rosso? E poi non dite che non ve l'avevano detto. Numero dell'ACI memorizzato. Stazione radio con aggiornamenti sul traffico sintonizzata. Navigatore impostato. Si parte. Eppure manca qualcosa. Tua moglie. Voi avete tutto. Mandateci i vostri sms al 349-238-6666 o chiamateci all'800-24-0024 per raccontarci le vostre tecniche di sopravvivenza alla partenza. Perché oggi è venerdì e chi parte il venerdì sera soprattutto lo sa che non si vuole proprio molto bene, visto che ci sono non solo quelli che partiranno per le vacanze, quindi le vacanze di agosto, ma anche quelli che partono solo per il weekend. Per esempio, io stasera voglio unirmi e nutrire la coda dell'esodo partendo per il weekend e andando sul lago, perché parto stasera e tornerò domenica, quindi più intelligente di così non so, però voglio dire, io c'ero. Quindi oggi si parla di code in autostrada, code al check-in, code all'autogrill, code per andare in bagno anche a casa vostra, perché vi state tutti preparando e dovete essere prontissimi. Oggi tecniche di sopravvivenza, sono in scena le code. Siete pronti per affrontare tutto questo? Quanti te l'avevo detto siete disposti a tollerare oggi, o quanti insulti? Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidio spaventosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Ecco, Furio, diciamo che è la Bibbia per chi sta per partire, per le tecniche di sopravvivenza. Ma per sapere se c'è una perturbazione, magari fate veramente conto sulla vostra cervicale o dei doloretti, non chiedetelo all'ACI. Però per sapere se ci sono le code o se è il caso di fare quella strada piuttosto che un'altra, di cambiare itinerario, tra un po' ce lo dirà la strada stessa, perché c'è un progetto che si chiama Intelligent Transport System, acronimo ITS, e sono dei sistemi che ricevono direttamente dai veicoli i dati sulla situazione del traffico, li rielaborano in tempo reale e poi aggiornano le sale di controllo della mobilità pubblica. Fantastico, quindi sapremo, saranno i veicoli stessi, saranno le automobili a dirci se ci sono delle code, se ci sono dei lavori in corsi, qual è la strada migliore da fare. Per esempio a Torino c'è c'è Simone, che è un acronimo per Sistema Innovativo di Gestione della Mobilità per le Aree Metropolitane. Allora, Simone è questo sistema nuovo per cui appunto si potrà sapere in tempo reale, non ancora oggi, quindi oggi vi tocca ciucciarvi le code, ma per l'estate del 2011 probabilmente tutti gli automobilisti in coda potranno sapere in tempo reale cosa sta succedendo, perché c'è questo sistema che aggiorna regolarmente le sale di controllo della mobilità e ci fa sapere se dobbiamo stare 10 minuti ad aspettare ad un incrocio oppure se c'è una strada che possiamo fare in alternativa. Quindi diciamo che forse nel 2011 ci saranno delle partenze intelligenti, ma intelligenti ormai sono anche le automobili. Supercar per il momento, anche se in America è stato inaugurato un progetto che si chiama American Journey 2.0. Protagonista non sarà una Pontiac, ma una accessibilissima Ford Fiesta, che pretende di avere una sua personalità, quindi esattamente come le persone che lei trasporta, avrà anche lei un qualcosa da dire, perché potrà essere collegata in tempo reale con Twitter, con Facebook, e potrà avere il proprio social network per raccontare quello che sta facendo e raccontare la sua esperienza di viaggio, per esempio. Quindi, non so, potranno esserci dei messaggi del tipo, mandati dall'automobile, messaggi del tipo si sta facendo buio, forse è meglio che io accenda i fari, o magari anche qualcosa di più personale, tipo, ma non c'è traffico, mi sto godendo una strada tutta curve. Non è facile. Pretendere qualcosa, prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi è il 6 agosto e si parte, quindi si parla di partenze e quindi inevitabilmente di code. Chiamateci all'800 24 00 24 per raccontarci la vostra partenza oppure i vostri messaggi al 349 238 6666. Luis da Treviso mi dice: partenza intelligente? Partire alle 4 di mattina mentre la moglie ancora dorme. Oppure Cesare dice: oltre agli impiegati che danno un occhio al computer, ricordati degli operai che danno un occhio al tornio. È vero, Cesare? Io non ho mai avuto problemi perché parto sempre con la moto da solo, quindi non ci sono problemi di arrabbiarsi con le valigie, non si firma. Bene, ma code abbiamo detto, code, partenze, problematiche di chi deve mettersi in coda al check-in, in coda in macchina, in autostrada, eccetera. Ma vogliamo anche capire chi invece è riuscito nella vita a bypassare le code, perché c'è qualcuno che è riuscito a trovare un escamotage, la sua tecnica di sopravvivenza. E oggi infatti vogliamo parlare con il tenente colonnello Massimo Tammaro. Per più di 11 anni nelle Frecce Tricolore e per più di 3 anni ne è stato il comandante. Massimo, buongiorno, ma che cosa mi racconti delle code e come hai affrontato nella tua vita le code? Buongiorno a te, Morena, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Sì, in effetti la fortuna delle Frecce Tricolori è quella, è sempre stata quella di potersi spostare con i propri aeroplani. La gente sorrideva quando gli raccontavamo che in effetti noi portavamo i nostri aeroplani in giro per il mondo per poi poter volare le nostre manifestazioni, ognuno col suo aeroplano, ovviamente evitando le drammatiche code dell'estate. Quindi come se fosse una macchina praticamente. Esatto, sì, sì, una macchina che ci consentiva di spostarci per fortuna in maniera veloce, seguendo le strade, quelle che vengono chiamate aerovie, no? Uh-huh. E tu come risolvi il problema di mettere le tue valigie tutte nel tuo bagagliaio, che voglio dire in un aereo sarà diverso, come l'affronti il tema valigia? Per fortuna quando ci spostiamo per le manifestazioni, quando le Frecce Tricolori si spostano per le manifestazioni, vengono sempre seguito sempre da un velivolo dell'aeronautica militare, che è un velivolo da trasporto e porta con sé il personale tecnico, i pezzi di ricambio dell'aeroplano, i fumi e le valigie del personale. Ma la gestione delle valigie delle Frecce Tricolori è una cosa complessissima, che quasi quasi potrebbe far ridere, no? Perché dice vabbè, le valigie, però in effetti sai, la nostra attività è molto compressa e queste valigie devono continuamente essere spostate, partire, andare da un posto all'altro, tant'è vero che noi abbiamo proprio un team di persone che sono responsabili della gestione delle valigie, che l'ho fatto anch'io quando ero giovane, appena arrivato dalle Frecce. Una delle disgrazie che ti potevano succedere era di perdere la valigia del comandante, quella era veramente una tragedia. Quindi bisognava stare molto attenti alle valigie e oltre che alla preparazione, perché stando via tantissimo, per più di 6 mesi, dovevi essere anche bravo a preparartela, se non avevi una brava moglie o una brava ragazza che te la faceva. Ma bagaglio a mano o si poteva bagaglio anche esagerare? Perché purtroppo sull'aeroplano non c'è molto spazio, quindi è giusto. Praticamente nullo, e magari porti via con te il cellulare che riesci a mettere in una borsetta o pochissime cose che ti sono magari necessarie. Come un piccolo kit di emergenza nel caso in cui qualcuno ti perda la valigia. Giusto, ecco, a proposito di kit di emergenza, hai una tecnica di sopravvivenza che vuoi raccontarci? Qualcosa che magari ti è capitato, qualcosa che ti ha salvato appunto? Ma guarda, qualcosa che mi ha salvato è proprio il portare con sé uno spazzolino dei denti di emergenza, una mutanda di emergenza, queste cose che fanno anche ridere, però ti salvano, perché poteva succedere benissimo che per condizioni meteo, per problemi vari organizzativi, magari nel luogo in cui ti stavi recando la valigia per esempio arrivasse il giorno dopo. Quando ti capita per esempio invece di dover prendere la macchina e quindi di spostarti come fanno tutti, come le subisci le code? Cioè cosa fai? Come ti comporti in macchina? Guarda, io cerco semplicemente di... Ora, parlare di partenza intelligente è quasi sciocco, perché oramai tutti si fanno i conti, eppure ci si trova sempre ad essere in coda. Sicuramente io personalmente, adesso senza scherzare, preferisco viaggiare tardi, molto tardi, sempre, sia per il caldo e per il fatto che ovviamente c'è sempre un filo meno, proprio zero traffico non lo trovi neanche tardi, ma la sera sicuramente le condizioni per viaggiare sono migliori, purché tu sia una persona in grado di rimanere sveglia. Eh già, perché c'è anche questo. Perché questo è un fattore da tenere molto in attenta considerazione, perché sennò diventa pericoloso viaggiare. Eh già. Ma senti, ma le Frecce Tricolori hanno qualcosa in programma a breve o farete qualcosa? Beh, assolutamente, se mi consenti mi piacerebbe invitare tutti alla grande festa che si terrà l'11 e il 12 settembre a Rivolto, vicino a Udine, base delle Frecce Tricolori, per ricordare la 50ª stagione della nostra pattuglia acrobatica nazionale. Uh-huh. È un evento che è stato, devo dirlo, se mi permetti, realizzato grazie alla regione Friuli Venezia Giulia e a varie realtà industriali della nostra nazione, e tutte le informazioni utili per chi avesse voglia di venire a trovarci in quella grande occasione, a cui parteciperanno tantissime pattuglie da tutto il mondo, sono sul sito dell'Aeronautica Militare, che è www.aeronautica.difesa.it. Benissimo, grazie mille Massimo. Grazie mille, e ci vediamo tutti l'11 e il 12 settembre allora. Assolutamente, ti ringrazio e vi saluto tutti. Grazie, ciao. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi avvolgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Agosto tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla della partenza, perché organizzare una partenza, come ci ha raccontato il colonnello Tammaro, è qualcosa di impegnativo anche per chi fa un lavoro che apparentemente non dovrebbe avere lo stress delle code. Ma voi come vi state organizzando per allestire la vostra auto, per raggiungere l'aeroporto, per andare in stazione, insomma, cosa state facendo per partire? E soprattutto, se siete in auto, attenzione anche ai compagni di viaggio. Ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose. Anche le regole. Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Seconda, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventino un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale, perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare. Cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande? Una. Quale? Posso scendere? Troppo tardi, devo dirlo prima. Sicuri di aver scelto i compagni di viaggio giusti. Comunque, se siete in macchina e state per partire, ma per esempio avete anche dei bambini, bisogna stare attenti, perché i più piccoli, quando ci si mette in macchina o si deve affrontare un viaggio magari lungo in aereo, devono essere intrattenuti. Bisogna cercare di fargli passare il più in fretta possibile il tempo nei trasferimenti, appunto, perché poi si annoiano a morte loro. Abbiamo deciso di chiedere che cosa fa una neomamma e capire con lei magari se ci sono delle astuzie particolari. Ed parliamo con Camilla Raznovic, appunto, che è mamma da poco e ci può raccontare la sua esperienza. Ciao Camilla. Sì, buongiorno, ciao. Buongiorno. A tutti. Allora, come fai tu, che hai un bambino da poco, quando devi affrontare un viaggio lungo? Ma allora, guarda, Viola ha un anno, perché appunto è nata a luglio dell'anno scorso, quindi poco più di un anno, e noi abbiamo già, lei ha già, insomma, volato per il Marocco, per Praga, siamo andati in Corsica in campeggio, siamo andati in Grecia. Quindi in un anno, in questo breve anno della sua vita, Viola ha viaggiato tanto. E ci sono delle cose che si possono fare per facilitarsi soprattutto la vita a noi genitori, perché per loro paradossalmente può essere un po' noioso, ma non è che se ne accorgano tantissimo, specialmente quando sono molto piccoli. Sicuramente borsa dei giochi, per cui con dei giochi che loro conoscono, quindi familiari, e il mio trucco è sempre di questo: prima di un viaggio prendergliene uno nuovo che le farò vedere solo al momento del viaggio, in modo che lei si intrattenga. L'effetto sorpresa, certo. Sì, l'effetto sorpresa funziona sempre, per cui la borsa dei giochi con quelli suoi familiari, perché comunque cambia il set, cambia lo scenario, è importante che lei abbia dei riferimenti che sa di essere suoi, a parte ovviamente la mamma che vede. E poi invece l'effetto del gioco sorpresa fa sempre, diciamo che ti giochi un'ora, perché su un volo, ad esempio, la cosa più lunga che io ho fatto per ora è stato Milano-Marrakesh in volo, dove sai, un bambino piccolo lo devi tenere in braccio. Certo. E un'ora te la giochi dormendo, perché il bambino dorme un'ora. Un'altra ora te la giochi giocando col gioco nuovo. Un'ora ovviamente con la pappa, perché comunque in 4 ore un pasto ce l'hai, o la colazione o la merenda o la cena te la becchi. E per cui anche quello, insomma, cercare di farla, di renderla partecipe nella pappa, di non fare che sia solo un compito, no? Ma che sia un qualcosa di divertente. Chiaro. E poi un'altra ora partenza. Non è stato facilissimo. Ma è cambiato. Anche ho fatto Roma-Milano in macchina con lei, uh-huh. E anche lì non è stato facilissimo. Allora gli ho montato attraverso, ho montato nella mia macchina attraverso una cosa di spaghi, tra una maniglia e l'altra, dietro, ho montato dei giochi su dei fili, in modo che lei, tirando la carrucola, potesse giocare con i giochi di fili. Cioè, bisogna ingegnarsi un attimo. Poi io spesso viaggio da sola con la bambina, per cui bisogna. E poi vabbè, insomma, il cibo, acqua, il libro. Io metto anche nella macchina, ho portato, sai, quelle favole sul CD? Sì. Gliele metto, lei comunque sente, le piace. È tanto tutta cosa che la distrae per un quarto d'ora, 20 minuti, perché poi si annoia. Bisogna cambiare. Però, poi. Di 20 minuti in 20 minuti si conquista il viaggio. Certo, ma è cambiato il tuo modo di viaggiare da quando hai una bambina? No, devo dire che appunto, come ti ho detto, Praga, Marrakesh, Corsica in campeggio e Grecia in un anno. No, direi di no. Ecco, magari eviterei di farmi le ande con lo zaino in spalla con lei, ma è solo una questione di tempo, perché adesso ha un anno, ha appena imparato a camminare. Già quando ne ha tre che cammina senza bisogno del passeggino, ritornerò proprio ai miei vecchi standard, che è il viaggio proprio molto hardcore, come dire. Perché secondo me fa bene proprio a loro, fa bene ai bambini. Io sono stata cresciuta così, e ti dà una padronanza del mondo e una fiducia nel mondo, che altrimenti, se vai sempre nella stessa casa in Liguria, con tutto il rispetto, però secondo me il bambino perde qualcosa, si perde un lato della vita che è importante, che è quello dell'avventura, del mistero, del nuovo, della novità, Bisogna abituarli i bambini, no? Bisogna abituarli fin da piccoli, oddio, non so se bisogna, è un verbo un po' forte, però sarebbe bene. Mm-hmm. Così non ci sono sorprese poi nei viaggi, se si abituano da bambini. Sì, e poi si abituano, cioè comunque si abituano a viaggiare, no? Certo, certo. Bene, ma ti vedremo in televisione ancora con Amore Criminale? Sì, mi vedrete tutto agosto, il mercoledì sera in prima serata su Rai 3 con Amore Criminale. Quindi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Va bene, grazie. Grazie, buona partenza a tutti, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:36, oggi si parla di partenze, di code. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666 e le vostre telefonate all'800-24-0024. Ma quanto stress c'è appunto stando in coda? Cerchiamo di capire insieme come cercare di uscirne da questa cosa. Quanto tempo, per esempio, fermatevi un attimo a pensare, quanto tempo avete perso nella vostra vita stando in coda? Quando siamo pronti in fila diamo tutti un bel colpo di clacson, avanti! Clacson Silvani, sirena Calboni, clacson Colzi e Mughini, clacson Fantozzi, clacson Di Filini. Allora, se siete in coda in questo momento, fate tutti un bel colpo di clacson. Se invece siete in ufficio a casa, fate anche un colpo di tosse che va bene lo stesso, così capiamo che stiamo ascoltando Radio 24. Ma abbiamo al telefono Gianluca da Alessandria. Gianluca? Sì, Morena, buongiorno Morena. Ciao, buongiorno. Ciao Gianluca. Sono ad Alessandria più o meno. La mia sopravvivenza quest'anno è veramente problematica. Io sono in viaggio con mia moglie Camilla e mia figlia Beatrice. Uh-huh. E io e mia moglie abbiamo un bagaglio modestissimo. Mia figlia enorme, ha sei mesi mia figlia, sei mesi e mezzo. Cosa le avete portato? Gli abbiamo portato tutto, le pappe sono tantissimo, il passeggino. Però sapete cosa mi è successo? Non ci crederete, in questo momento mi è suonato l'allarme a casa. No. Io sono partito per le vacanze, c'è l'allarme che mi suona, mi ha chiamato il 113. Non so come fare, devo tornare. Casa mia, Pavia, adesso. Sono a 150 chilometri, io abito a Pavia, e devo tornare indietro, non c'ho casa nessuno, mi amo, io sono in montagna. Qual è la tecnica di sopravvivenza? Ma non lo so. Ho superato il Magda e Furio del bagagliaio e ho sistemato. Ma devo tornare. Ma Gianluca, è un disastro. Ma meno male che Beatrice non può parlare in questo momento, sennò anche lei avrebbe qualcosa da dire. Sta dormendo dietro. Camilla, prima, Camilla, l'attrice, quella di MTV che ha chiamato prima, ha raccontato che lei riusciva a distrarre 4 ore, il mio viaggio dura 10. Le altre 6 ore? Le altre 6 ore non so, passale all'autogrill, cerca di capire se puoi comprare dei giochini. Lei diceva che comprava sempre dei giochi nuovi, non lo so. Ecco, forse non è molto educativo. Regala un antifurto, sono veramente preoccupato. Sembra uno scherzo questo, ma è così. Ma povero Gianluca, innanzitutto, allora buone vacanze a te, a Camilla e a Beatrice, anche se sta dormendo. Mi dispiace, troppe disdette per questa partenza. Ciao Gianluca, grazie a te. Ciao. Ma veniamo alla storia. Oggi 6 agosto, che cosa è successo? Il 6 agosto del 1791. A Berlino viene aperta al traffico la porta di Brandeburgo. Dopo il 1989, vero simbolo della libera circolazione non solo di mezzi, ma anche di idee e libertà. Il 6 agosto del 1926, Gertrude Ederle è la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Bel modo di eludere le code. 6 agosto 1914. Sono passate solo 24 ore dall'installazione del primo semaforo elettrico a Cleveland, in Ohio. Di quanti ingorghi si sarà reso colpevole da allora? macchina e sta venendo da Roma, magari verso Firenze sulla A1, così per caso uscita in Cisareggello e si sta si sta avvicinando al casellante o, come si dice adesso, esattore per pagare il pedaggio, può essere che si imbatta in Leonardo. Leonardo, sei con noi? Eccoci qua, un saluto e buone ferie a tutti e buon viaggio a chi ci sta ascoltando in auto in questo momento. Grazie mille Leonardo. Allora, innanzitutto precisiamo, tu oggi in realtà non sei alla tua postazione di Cisareggello, giusto? Sei in vacanza. No, oggi troveranno un collega o una collega lì al casello di Incisa, alla stazione di Incisa, come noi la chiamiamo tecnicamente, anche se nel gergo comune rimane il casello e il casellante impersonato da noi. Non ci sono, io ci sono domani di terzo turno, che sarebbe il turno di pomeriggio. Perfetto. Magari se qualcuno esce domani e ha sentito la nostra conversazione saprà che c'è Leonardo De Nicola a lavorare. Che sei tu. Perfetto, ma noi volevamo chiederti un po' di cose, visto che tu hai una visuale così abbastanza preferenziale sulle code e soprattutto su quello che succede in macchina, perché si sa, si parte e spesso si litiga, ma ti capita di vedere magari, non so, delle coppie che si fermano, da come ti danno il biglietto, da come ti rispondono, capisci che c'è un po' di stress, insomma, non so, che è successo qualcosa? 25 anni e passa di lavoro, di questo lavoro, di cabina, di casello, mi hanno portato anche a vedere certe situazioni, a capire anche l'aspetto psicologico dell'utente, del cliente, di chi sta passando. Ci sarebbero tante cose da raccontare. Certamente la macchina funge un po' da stress, e quindi il nervosismo che si ha in coda in macchina, magari, permettimelo di dire, non si ha quando facciamo la coda e lunghe attese dal dottore o in banca. Già. Da noi tutto è più esasperato e anche con minor tempo la gente ha meno pazienza. Questo lo devo dire francamente, perché poi sono un casellante, ma sono un cittadino che fruisce di tutti i servizi e mi capita di vedere un atteggiamento diverso in coda dell'utente, delle persone quando passano da noi con la macchina, forse perché la macchina è un concentrato proprio di stress, sì. Che uno vuole arrivare a fretta, soprattutto in ferie in questi giorni. Certo, ma ti è capitato magari, non so, di riconoscere certe macchine, certe persone, non so, quelli che escono sempre dalla tua postazione? Chiaramente prima degli automatismi, cioè i vari telepass, porte automatiche, sono capitate cose. Una sera a Firenze Nord passai l'intera nottata con Gianna Nannini in cabina. Fantastico! Aspettava una da Milano e quindi parlammo gradevolmente per tutta la notte, ma insomma è passato tanta gente famosa, ora devo dire è meno famosa, ora con il telepass, con l'automazione ne vediamo meno. Diciamo. Già, è vero. Abbiamo, diciamo, una clientela più di abitué. Il casello dove opero io è un casello soprattutto di pendolari che vanno a lavorare a Firenze, quindi più o meno, diciamo, al 50-60% passa sempre le solite persone. Certo, ma tu per esempio come ti comporti con quando devi partire e dall'altra parte hai qualcuno che fa il tuo lavoro e devi dare il biglietto? Cioè instauri un rapporto particolare o tu hai il telepass? Senti, posso essere, magari sono arrabbiato quando vado in coda all'autogrill, no? Poi però quando arrivo al casello anche un'eventuale coda la interiorizzo, la digerisco, perché mi pongo che al posto del collega ci sono io, quindi è giusto. Voglio dire, so perfettamente che un atteggiamento cortese dell'una e dell'altra parte, devo dire, è più gradito sicuramente, soprattutto in queste ore e in questi giorni affollati. Già. Beh, io ti ringrazio Leonardo. Facciamo così, che magari tutti quelli che domani passano sulla A1 venendo da Roma e si fermano ad Cisareggello. Si ferma e domani, quindi mi costringi anche a essere più educato. Ma chiaro. Se hanno sentito la nostra conversazione, domani devo gioco forza a trattenermi da qualsiasi slancio così un po' particolare, però. Ma sarai fantastico come lo sei stato con noi. Grazie mille. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Si parla di code, come avete appena sentito, ce ne sono parecchie in giro, quindi attenzione. Oggi tecniche di sopravvivenza per le vostre code. 800 24 00 24 per parlare con noi o i vostri sms al 349 238 6666. Manuela mi dice: fare il puzzle con i bagagli? Per noi donne è facilissimo, applichiamo la stessa tecnica usata nel riempire le lavastoviglie, più piatti possibile. Oppure Giuseppe dice: a sentire Furio alle prese con le valigie sorridevo, ma ridevo di me stesso perché mi vedevo a caricare, scaricare più volte le valigie fino a quando non è tutto incastrato e equilibrato alla perfezione. Che fatica! Oppure Franco da Cantù, dopo tanti anni di baule disordinato con valigie, borsoni e borsette, sono riuscito a convincere la fidanzata a usare 4 belle capienti valigie rigide e stop, ordinate, comode e pratiche. Che bel viaggio, 10 minuti per caricare, 5 per scaricare. Ma è bravo Franco. Ma quali sono le nostre tecniche di sopravvivenza? Agendina alla mano, perché adesso arrivano le nostre. 1. Non è nella partenza che si misura il tuo quoziente intellettivo, semmai nella meta. 2. Qualunque sia la tua destinazione, cerca di bypassare Barberino del Mugello. 3. Non ridere della colonna di macchine che vedi nella carreggiata opposta alla tua. Prima o poi capita a tutti. 4. Controllare ad ogni autogrill la pressione delle gomme non rassicurerà tua moglie sulla tenuta di strada della vostra vecchia auto. 5. Controllare la tua pressione, invece, ti impedirà di abbandonare tua moglie nel suddetto autogrill dopo l'ennesimo «te l'avevo detto». E che cosa c'è da fare questa sera? Questa sera o nel weekend? E per trovare degli appuntamenti davvero in linea con la follia di questo giorno di partenza intelligente, abbiamo deciso di chiederla a Federico Taddia di Mine Vaganti, in onda la domenica pomeriggio dalle 17 alle 19. Ciao Federico! Ciao, eccoci qua, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu hai qualche cosa da raccontarci, qualche mina vagante che ci può intrattenere questo weekend? Ma guarda, è proprio un weekend all'insegna delle mine vaganti. Ti ho selezionato 3 appuntamenti tra oggi e domenica, che secondo me sono assolutamente da mina vaganti. Per esempio, partiamo dalla Sardegna, da Arzachena, dove domenica ci sarà la seconda edizione del campionato italiano di gara di tuffi a bomba. Che non è male, no. Basta non sapersi tuffare e puoi partecipare, un po' questa l'idea della manifestazione. Ma sai se ci si può iscrivere ancora o ormai solo spettatori? No, guarda, credo che sia aperta veramente a tutti, non viene fatto nessun casting. E tra l'altro puoi proprio anche esibirti, puoi anche fare delle variazioni a tema, puoi anche dare un nome al tuo tuffo, pare assai divertente. Quindi insomma tutta la giornata, se uno voglia di divertirsi può guardare gli altri, su una voglia anche di esibirsi, vai con la bomba. Fantastico. Mentre ti porto anche ad Argentera, che è una frazione di Rivarolo, siamo in Piemonte, dove il 7 agosto, cioè domani, ci sarà una gara di tractor pulling, che tu non sai, no, credo, di cosa si tratti, io nemmeno. È una manifestazione unica in Italia, l'hanno importata dagli Stati Uniti. È una gara tra trattori truccati. Truccati sia esteticamente, perché se tu vedi qualche con rimmel, sono proprio carini, ma sono proprio anche truccati nelle loro prestazioni, perché è una sorta di gara che riesce a trasportare una slitta di 25.000 kg e con rumori assorda un'americanata, una vera americanata. Fantastico. E lì anche si possono fare da spettatore, immagino, ormai. A meno che tu a casa truccare il trattore. È un po' tardi adesso truccarlo. Non è tardi, però sembra molto spettacolare, insomma, siamo al limite del trash, lo ammetto, però credo che può valer la pena dare un'occhiata. E questo è domani, dicevi? Questo è domani. Invece, lo avrò anche ospite se sopravvive, ovviamente, domenica in diretta, Mine Vaganti. Se oggi, domani o domenica siete dalle parti di Riva del Garda, c'è un tale architetto Vincenzo Catalano, un quarantenne che ha nel curriculum qualsiasi gara lui l'ha fatta, che tenterà di fare questo triplice record, cioè nuoterà per 8 ore. Come nuoterà per 8 ore? Da Rivoltella a Desenzano. Arrivata a Desenzano gli danno una bicicletta, quindi lui parte oggi alle 17 e farà questa nuotatina, dopodiché gli daranno una bicicletta, lui farà il giro di tutto il lago di Garda e dovrebbe arrivare domattina alle 7. E a quel punto, l'indomani, appoggia la bicicletta e ripercorrerà, però in senso antiorario questa volta, tutto il giro del lago di Garda di corsa per cambiare il panorama. 25 ore. Mio Dio, ma come si chiama questo signore? Questo architetto? Vincenzo Catalano. Ma Vincenzo, ma non avevi di meglio da fare? Ma Vincenzo, ma no. Così, guarda, istruzioni per l'uso, non fermatelo, non chiedete autografi, insomma, se vedete questo fenomeno, perché alla fine è un fenomeno, dal punto di vista fisico, però dai, uno dice vado un weekend al lago. Sì, però bisogna anche sapere dove beccarlo, perché se appunto fa tutto il giro, cioè ovunque tu sia sul lago di Garda, questo fine settimana lo si può incrociare, questo signore. O in bicicletta o a piedi o a nuoto, tu stai lì fermo e lui prima o poi passerà. E lui passa, esatto. E senti, e se ce la fa appunto, se sopravvive, domenica sarà tuo ospite, dicevi? Domenica sarà mio ospite perché avremo anche ospite Alex Bellini, navigatore solitario, che detta così siamo un tom invenduto, invece lui è un grande, ha attraversato il Pacifico da solo, ci racconterà la sua impresa, e anche catalano, ha detto che lui prova a dormire domenica, quindi punterà la sveglia per le 17, speriamo che sia anche puntuale, oltre certo. Che eroico insomma nelle sue gare. Certo, e tu stasera che cosa fai invece? Io questa sera sto partendo da Bologna, andrò a Cortina con la doppia valigia, sarà caldo o sarà freddo, ma lo scopriremo sul posto, e faremo una lezione di astronomia insieme a Margherita Hack. Ah, che bello! Che il gioco sarà che io farò domande a Margherita, lei risponderà e io farò finta di aver capito le risposte, però è una lezione pubblica all'interno di Cortina Incontra, e insomma il 10 agosto è vicino, quindi ci piaceva raccontare un po'. Tutti pronti per le stelle cadenti? Sì, speriamo che non ci sia anche pioggia cadente. ma quindi possiamo venire questa sera anche? Cortina Incontra, assolutamente, se siete da quelle parti, c'è tutto il programma, insomma è ricchissimo di manifestazioni, questa sera è aperta al pubblico e siamo lì. È un incontro pensato soprattutto per i più piccolini, ci piacerebbe coinvolgere anche i bambini perché è il seguito di un libro che abbiamo scritto insieme a Margherita, pensato proprio ai fanciulli, però quando c'è l'HAC insomma ci si diverte a 360 gradi, quindi credo che sarà una serata piacevole per tutti. Meraviglia, per avere informazioni su questa cosa come possiamo fare? Cortinaincontra.it. Perfetto. Questo è il sito dove ci sono tutte le dritte per la serata. Perfetto, quindi vabbè, è un fine settimana da mine vaganti, buona serata per questa sera, il tuo incontro, e ci sentiamo domenica, speriamo di avere anche Vincenzo appunto. No, non dire così, dai. No, ma voglio dire, speriamo che magari, capito, gli prende la sindrome da criceto e questo non si ferma più, continua a girare attorno al lago per giorni e giorni. Vedremo. Grazie Federico, allora buon domenica weekend, anche grazie. A te, ciao. Beh, ci sono un sacco di cose da fare quindi questa sera e questo weekend. Leggiamo un ultimo SMS. Pronti per imboccare il Col di Tenda per iniziare un tour della costa francese, ma la nostra macchina è carica come se dovessimo partire per il Marocco per un mese. Golf bianca del 90 con due bici su bagagliaio, sì, caricata ovviamente ieri sera. Ecco, se la riconoscete, non si firma, ma è questo signore che ci ha mandato l'SMS. Vabbè, è venerdì, si parte, quindi liberi tutti, adesso ci diamo appuntamento per lunedì ovviamente della prossima settimana con una nuova settimana di tecniche di sopravvivenza. Lunedì si parlerà del caldo, come sopravvivere al caldo, visto che la prossima settimana, come abbiamo detto, ci si deve prenotare per venire a bere un caffè da noi, mandate la vostra candidatura ad agosto@radio24.it e possiamo parlarne insieme nelle puntate di martedì, di mercoledì e di giovedì, quindi scrivete il perché siete rimasti in città e il perché magari non siete partiti. Se volete riascoltare le puntate precedenti, quindi di agosto, tecniche di sopravvivenza, sul sito della radio c'è il podcast e andiamo in replica anche la sera alle 10. Ciao a tutti, buone vacanze, ringrazio Vittoria Mussini, Laura Faggini in redazione e in regia Roberto Scaltritti. Ciao e buona giornata. Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Interessa?